Chi è l'uomo collerico? Non sono io, neppure tu. E l'altro, secondo il dizionario, l'uomo collerico è chi è incline alla collera, facile agli scatti d'ira. E un uomo irascibile, iracondo, stizzoso, iroso. Secondo questa definizione, l'argomento dell'uomo collerico non interessa a coloro che per natura hanno un carattere docile, amabile e mansueto. È vero però che tutti, prima o poi, ci siamo arrabbiati o abbiamo perso le staffe. Quindi, questo argomento interessa a tutti. L'argomento della collera mi porta indietro di tanti anni, a quando ero un ragazzo e giocavo con mia sorella gemella. Come per tutti i fratelli, veniva il momento del litigio e mia sorella non risparmiava i gesti per colpirmi, ed io, sempre attento e veloce, allungavo il braccio per difendermi. Nel difendermi mia sorella colpiva il mio braccio e si faceva male, e nel farsi male si arrabbiava di più, e più era arrabbiata e più mi colpiva, facendosi ancora più male. Nella mia calma osservavo stupito come mia sorella continuasse a colpirmi nonostante si facesse male, che come fosse insensata quando era arrabbiata. Da allora ho sempre avuto la certezza che una persona arrabbiata non si trovi nelle condizioni di ragionare sensatamente, o almeno non è nelle piene facoltà mentali. Ma col passare degli anni ho notato che alcuni possono anche arrabbiarsi, mantenendo però il lume della ragione. Ma poiché essere arrabbiati e rimanere sensati è dato a pochi, in genere chi si arrabbia ha dei comportamenti che nei momenti di calma disapprova. Se questa è l'esperienza per chi si arrabbia, l'uomo collerico, cioè colui che è spesso in collera, si trova maggiormente a essere alterato nelle sue azioni e nei suoi ragionamenti. In merito, ho presente un giovane con il quale faccio fatica a parlare, perché vi sono argomenti che lo fanno scattare, al punto che arriva a parole inopportune per le quali, in seguito, è poi costretto a chiedere scusa. Vi sono persone che sono calme quasi per ogni cosa, ma se si parla in negativo del loro partito o, come per altri, della squadra di calcio per cui tifano, allora non sono più obiettivi. Il loro tono di voce aumenta fino a perdere la calma. L'ira è veramente una piaga. Occorre riconoscere per obiettività che altre persone diventano colleriche quando si parla di religione, perché vogliono difendere l'immagine delle loro credenze. Ma voglio ricordare che per un cristiano questa mancanza non dovrebbe neppure esistere lontanamente, perché egli non deve difendere nessuna religione. Il cristiano è chiamato a testimoniare di Cristo e nessuna ragione deve portarlo alla collera. La parola di Dio accenna dell'uomo collerico e ne presenta delle caratteristiche interessanti. PR 29:2-2. L'uomo collerico fa nascere contese e l'uomo furioso commette molte trasgressioni. PR 15:18. L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. In questi due proverbi sono messi in evidenza la caratteristica principale dell'uomo collerico e non importa l'opinione che abbiamo di noi stessi, se pensiamo di essere collerici oppure no, ma se il nostro comportamento provoca delle contese, dei litigi o dispute, dobbiamo riguardare il nostro comportamento, cioè ravvedercene. Perché allora vi sono persone che nonostante sappiano queste cose continuano a creare divisioni e litigi? La risposta a questa domanda è la stessa che deve essere data a tutti coloro che, pur sapendo che un'azione è sbagliata, continuano in essa, mostrando così che chi compie un'azione a volte dà più affidamento ai suoi sentimenti o alla motivazione che lo spinge, piuttosto che al risultato dell'azione stessa. Un collerico, come qualsiasi altra persona mancante, generalmente ha una motivazione nobile come quella di voler mettere delle situazioni in chiaro o di difendere la verità, ma non si rende conto che una motivazione nobile non è sufficiente per agire con giustizia. Come disse Gesù, vi sono persone che uccidono altri pensando di compiere un servizio per Dio, e al mondo di queste persone ce ne sono molte, cominciando dal cattolicesimo e dagli estremisti islamici. Ma la loro giusta motivazione non rende corretta un'azione ingiusta. Così è del collerico, egli deve essere convinto che non serve arrabbiarsi per affermare una verità, o perché questa venga messa in pratica, perché tutto dipende dalla sovranità di Dio. Chi è inclina a perdere la pazienza generalmente è colui che crede di gestire ogni situazione della vita. Perciò la prima mancanza del collerico è una sorta di ateismo. Egli pensa ed agisce confidando sulle sue capacità e vuole che in tutti i modi i fatti della vita si svolgano come crede bene, anche se ovviamente non se ne rende conto. In effetti, chi dipende da Dio non ha ragione di arrabbiarsi in nessuna situazione, perché è cosciente che non si muove foglia che Dio non voglia. Certamente la verità va proclamata con fermezza, ma il risultato dipende unicamente dal Dio Trino Sovrano. Chi confida in Dio calma le liti ed evita grandi trasgressioni. Dunque, colui che è calmo e conciliante cercherà sempre una soluzione pacifica, mentre il collerico non guarda i risultati e produce contese. Sono appropriate le parole di Giacomo. GM 3:13-18. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere, compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove ci è invidia e contesa, ci è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Chi ritiene di parlare o agire da parte di Dio deve considerare i risultati del suo comportamento. La sapienza che viene da Dio produce un risultato positivo, produce grazia, pace, amore, gioia. Non ottenendo questi risultati dalla sapienza che riteniamo provenga da Dio davanti a del disordine da noi provocato, dobbiamo diffidare della nostra intelligenza e del nostro discernimento. E per questo siamo tutti chiamati a non essere amici dell'uomo collerico. PR 22:24. Non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento. Chi è saggio sceglie le amicizie e non si accontenta di avere solo della compagnia, perché quando si è stabilita un'amicizia sbagliata è molto difficile ritornare indietro. Giovanni, un ragazzo educato da una famiglia credente, aveva avviato un'amicizia con una giovane che frequentava un gruppo poco stimato del quartiere dove risiedeva. All'inizio l'amicizia era solo formale, ma in seguito divenne sempre più seria e più profonda, fino al punto che, per farle un piacere, Giovanni usciva spesso con tutti i ragazzi. Ad un certo punto si rese conto che fra loro circolava della droga, conosceva come questa droga entrava nel gruppo e come veniva spacciata, e decise di cambiare compagnia. Il gruppo, che era al corrente di ciò che sapeva Giovanni, lo minacciò di morte se qualcuno fosse venuto a sapere della droga. Giovanni ne uscì, ma per anni visse nel terrore, perché se i ragazzi fossero stati scoperti, la colpa sarebbe ricaduta su di lui. E saggezza dunque non avere amicizie indiscriminate. Del resto, se i ladri, gli assassini, i drogati si scelgono le amicizie corrispondenti ai loro valori morali, perché chi ha una buona condotta deve avere altre amicizie? Il comportamento dei malvagi non è per noi un insegnamento a scegliere di frequentare uomini che non siano anche collerici? Chi è saggio di cuore impara sempre e quindi anche dal collerico saprà imparare qualche lezione. Innanzitutto il saggio imparerà che uno scatto d'ira può far perdere grandi benedizioni. La parola di Dio ci riporta all'episodio di quando Mosè fu provocato dal popolo con queste parole. SL 106:33 lo provocarono presso le acque di Meribah e ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere. Mosè non era un uomo collerico, eppure per uno è vero che Mosè attribuì la colpa al popolo. Deuteronomio 1:37-3:26-4:21. Ma ciò non gli fece evitare la punizione di Dio. B. Il saggio impara che il collerico rivela il suo orgoglio. Vediamo questo aspetto nella parabola del figlio prodigo nella persona del fratello maggiore. Di lui è scritto. Luca 15:28. Egli si adirò e non volle entrare. Il fratello maggiore del figlio prodigo si adirò perché il padre aveva trattato bene suo fratello. Nonostante questo avesse sperperato tutti i soldi dell'eredità, ma la sua reazione collerica ha rivelato l'invidia, la gelosia, la crudeltà, il cattivo umore, l'ostinazione e la suscettibilità insiti in lui. Il collerico rivela di sé più di quanto non pensi. In effetti sta scritto PR 14:29, chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. C. Il saggio impara che con il collerico non ci è intesa. PR 29:9, se un saggio viene a contesa con uno stolto, quello va in collera o raide e non ci è da intendersi. Cercare il colloquio è un gesto di saggezza, ma cercare di andare d'accordo con chi è pronto alla collera non è più accortezza. Il saggio impara dal collerico che lasciarsi andare alla collera non porta nessun frutto e nessun aiuto alla comprensione. Un giorno il profeta Giona andò in collera e l'Eterno Dio gli chiese: «Ti pare giusto adirarti così?» Questa domanda dovrebbe sempre essere presente ogni volta che si va in collera, perché come per mia sorella, più si va in collera, più ci si fa del male. Se come sta scritto meno, con un parlare dolce si spezza le ossa, PR 25:15, se la risposta dolce calma la collera, PR 15:1, se l'uomo dalla collera violenta deve essere punito, PR 19:19, non è possibile ignorare ciò che abbiamo preso in esame. Se si è convinti, la collera sparirà da sola. E con essa anche i collerici. Gennaio 2007. Ellero.